Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente oggi a tener banco, cronaca italiana, mi riferisco alla Telecom, al CDA, al Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia. È iniziato metà pomeriggio, verso le 16 si è saputo che il presidente di Telecom Franco Bernabè, come devo dire ampiamente atteso, come già prevedibile da quelle dichiarazioni quando gli spagnoli annunciarono di avere aumentato o raddoppiando la loro quota dentro Telco, che controlla Telecom Italia, e dicevo Bernabé dichiarò di avere saputo delle modifiche all'interno del patto di Telco dal comunicato stampa. Era già una dichiarazione che diciamo, faceva presagire quello che poi è successo, perché un presidente, se dice così, vuol dire che in qualche modo o si ritiene esautorato dal suo ruolo o comunque non ha condiviso quello che è successo. Infatti si è dimesso alle 16. L'unico candidato dopo Bernabé resta Massimo Sarmi, che attualmente è amministratore delegato delle Poste Italiane. I soci favorevoli a Sarmi sarebbero Generali e Mediobanca. Restano i dubbi di Intesa San Paolo, che però ha una quota dentro Telco che non le permette di bloccare l'iter degli altri soci. Telefonica, cioè gli spagnoli, in questa fase non possono intervenire, visto che avevano garantito che la governance, quindi il controllo da un punto di vista gestionale di Telecom, sarebbe rimasto italiano finché loro non fossero saliti al 70%. Tra l'altro Telefonica ha sempre avuto una posizione abbastanza analoga a quella delle Generali. Per ora le deleghe che attualmente sono di Bernabé potrebbero essere prese da Aldo Minucci, ex numero uno di Telco, oppure dal consigliere anziano Jean-Paul Fitoussi. Due nomi invece per sostituire il dimesso Elio Catania, per accuse di insider trading, tutta un'altra storia. L'attuale presidente della Rizzoli Corriere della Sera, Angelo Provasoli, e invece Francesca Cornelli, indicata dall'azionista Assogestioni. Ancora, questo per quello che riguarda Telecom Italia, di cui parleremo sotto vari fronti, perché la vicenda ha anche un cotè politico e anche un cotè, diciamo, di rilievo nazionale. Altre notizie di questa giornata riguardano, oltre che la borsa, adesso vi arrivo, l'inchiesta della Guardia di Finanza. E questa è un'inchiesta delicatissima, perché hanno eseguito nella sede dell'Istituto di Credito Merrill Lynch LPD a Milano un sequestro preventivo per un importo di oltre 15 milioni di euro. Perché questo? Il sequestro è stato disposto dalla Procura di Verona nell'ambito di un'inchiesta sulle operazioni di finanza derivata stipulata dal Comune di Verona. Il Comune di Verona non è l'unico, c'è Milano, c'è Taranto, ce ne sono tanti altri. Qual è l'accusa che ha portato a indagare per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, oltre al direttore di Merrill Lynch, Barry Ryan, anche il dirigente Nicholas Lomas e il vicepresidente pro tempore del Public Sector Strategic Solution Group, che è Marco Massucco. L'accusa è di avere fornito dati e informazioni parzialmente vere, per cui avrebbe dolosamente indotto il Comune di Verona a ristrutturare il suo debito con la sottoscrizione di derivati swap per oltre 256 milioni di euro, omettendo, quindi non dicendo, quando proponeva questa ristrutturazione del debito del Comune di Verona, di indicare che vi sarebbero state commissioni, a questo punto occulte, per oltre 15 milioni di euro. E l'accusa è che in questo modo, se lo avessero detto, sarebbe venuta meno la convenienza economica dell'intera operazione finanziaria. Insomma, è come se io ti dovessi vendere, diciamo, una polizza assicurativa, però omettessi di dire che il costo della polizza in realtà è quasi più alto di quello che vado ad assicurare. Non è esattamente così, ma insomma l'accusa è abbastanza chiara. Se tu ometti di dire quelle che sono le commissioni da 15 milioni di euro, il cliente, in questo caso il Comune di Verona, non riesce a valutare la convenienza finanziaria ed economica dell'operazione, quindi lo stai raggirando. Questo è un altro caso di processi già in corso, penso quello di Milano, è fissato per il prossimo 30 gennaio per 4 banche imputate, Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e Depfa Bank, per avere anche in questo caso truffato il Comune di Milano, sono imputati gli ex manager. Di questo parleremo in apertura del programma. Poi dicevo anche la borsa, meno 0,23% Milano in questo momento, assolutamente in linea con le altre borse europee. Parigi fa meno 0,50, Francoforte meno 0,22, Londra più 0,26, l'America meno 0,82%, in rafforzamento l'euro, anche se rafforzamento relativo a 1,3618, tra i titoli CNH Industrial, quindi Case New Holland perde il 3,12%, Prismian meno 1,40, Terna meno 1,20 come Fiat, lo 0,90 lo perde Xor, chi va bene? Popolare di Milano più 3,71, Finmeccanica più 3,5, Fondiale SAI più 3,13, Mediolanum più 2,60, Ansaldo STS più 2%, A2A più 1,40, come Ferragamo l'1,30 lo guadagna UbiBanca, lo 0,90 Mediaset, ma anche Telecom Italia e Diasorin. 349-238-6666 per i vostri SMS e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo con le altre notizie in breve. Petrolio, oro in leggero rialzo, $1,310 sui mercati asiatici e petrolio invece stabile. È un po' di settimane che il petrolio si scosta pochissimo da quota $104-$103 al barile. Dagli Stati Uniti continuano ad arrivare notizie preoccupanti sul shutdown che abbiamo raccontato quando poi è scattato, ripeto, in America. Se non si trova un accordo sul budget, sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio, e non si è trovato questo accordo, perché i repubblicani vorrebbero che Barack Obama facesse marcia indietro sulla riforma sanitaria. Comunque, al di là di questo, se non si trova un accordo, non funziona come in Italia che si va in gestione provvisoria e comunque aumenta il debito. Si chiudono gli uffici pubblici che si chiamano in America uffici federali. Ora, questo sta creando un danno di $300 milioni al giorno. Infatti alcuni l'hanno paragonato agli uragani Katrina e Sandy, l'effetto uragano. Allora, la cifra potrebbe anche lievitare nei prossimi giorni. L'ultima volta che capitò fu durante l'amministrazione Clinton e vi fu un danno complessivo di 2 miliardi di euro. Tutti i paesi, devo dire tutti gli organismi finanziari internazionali sono molto preoccupati. La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha detto che l'impasse del debito americano può avere un effetto globale. Domani non usciranno i dati sul mercato del lavoro statunitense come effetto della chiusura degli uffici, perché appunto il Dipartimento del Lavoro non comunicherà i dati e la prolungata incertezza sulla possibilità o meno che gli Stati Uniti paghino i loro conti, secondo il Tesoro americano, potrebbe avere un impatto profondo che potrebbe durare addirittura una generazione, tant'è che il Tesoro americano sottolinea il potenziale catastrofico se si continuasse a sostanzialmente ad avere un fallimento, un default senza precedenti, cioè che lo Stato americano non riesce a pagare i suoi fornitori e in questo caso anche gli uffici della pubblica amministrazione. Ancora le richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti, il dato della scorsa settimana, sono comunque migliori delle attese, 1000 unità, gli analisti scommettevano che vi sarebbero invece stati 315.000 sussidi che si sono fermati, per fortuna aggiungo io, a 308.000. Veniamo alla Spagna, tra l'altro faccio notare che ieri in serata il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, ormai sta uscendo, ma ha definito frustrante la lentezza della ripresa americana. È una ripresa lenta in modo frustrante. Venendo invece all'Europa, la Spagna oggi ha collocato titoli di Stato a 10 anni con un tasso ai minimi dal settembre del 2010 al 4,26%. Ha venduto anche BTP a 5 anni, anche in questo caso il rendimento è calato notevolmente al 3,12%. Ha collocato oggi in totale Madrid 3 miliardi e mezzo di debito, quindi di obbligazioni, sul mercato. Ancora la ripresa, questa è una cosa che merita un leggerissimo approfondimento. Noi stiamo ricevendo ormai da un paio di mesi segnali non negativi, e devo dire anche abbastanza, lo dico in maniera molto prudente e incoraggianti, sugli indicatori di fiducia dei consumatori e anche delle imprese. E oggi l'indice PMI del comparto servizi viene rivisto a 52,7 punti. Perché lo cito? Perché la soglia dei 50 punti fa da spartiacque tra contrazione economica ed espansione del ciclo. Anche in Europa è leggermente risalito, in Italia è risalito più che altrove, e mentre oggi sul nostro spread non siamo arrivati a 2,70, però c'è stato un leggero rialzo a 258 punti, e che ha portato però ad aumentare di nuovo il divario tra il nostro BTP e il Bund tedesco, e anche soprattutto con quello spagnolo. Infatti noi abbiamo 258 punti, gli spagnoli sono a 246. L'Istat ha confermato oggi che il rapporto deficit-PIL nel 2012, indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL, è stato del 3% contro un 3,8% nel 2011, e devo dire che quello che noi stiamo pagando come scotto per l'incertezza politica non giustifica il nostro spread. Mi spiego, abbiamo un avanzo primario, cioè la differenza tra entrate e uscite dello Stato prima di pagare gli interessi sul debito, che è uno dei migliori d'Europa, al 2,4%, abbiamo un export che è secondo a livello europeo, per cui essere sotto la Spagna non si giustifica se non con la maggiore tasso di incertezza politica che proietta questo paese. Non c'è nessun fondamentale economico del paese Italia che giustifichi uno spread più alto di quello spagnolo, e devo dire che se abbiamo ottenuto di nuovo un avanzo primario è stato grazie alle stangate, alle batoste che si sono presi gli italiani in questi 3 anni, non grazie ad altro. Non mi sembra che qualcosa sia avvenuto dalla spending review, ossia dalla riduzione della spesa pubblica. Auguri a Cottarelli, che adesso arriva a fare il commissario, spero che abbia maggior fortuna di Bondi, che pur nella sua bravura trovò solo 500 milioni di euro da tagliare su 853 miliardi di spesa pubblica ogni anno. Ancora però, sempre sull'Italia, il potere d'acquisto delle famiglie fa meno 4,7%, ed è il calo, è il dato sul 2012, ed è il calo più forte in un anno come potere d'acquisto dal 1990, ossia da quando abbiamo iniziato a misurarlo, quindi non sappiamo se sia il calo peggiore da 30 o 40 anni. Da quando misuriamo il potere d'acquisto delle famiglie non c'è mai stato in un anno un calo così forte del potere d'acquisto. Questo lo dico perché poi leggo ogni tanto cose un po' strampalate. Vorrei che tutti, a partire dalla classe politica, si rendessero conto della situazione in cui siamo. E a questo proposito faccio notare che la crisi c'è per tutti, però per alcuni c'è un po' meno, parafrasando la fattoria degli animali di Orwell. Perché? Perché oggi è lo stesso ministro alla funzione pubblica, Giampiero D'Alia, parlando al Senato. Posso avere, non te la che chiudo un po' che non ascoltiamo Lino Gaetano, perché questa volta ne ho proprio bisogno, perché mentre da noi c'è chi la crisi non la sente, da altre parti compiono operazioni molto più radicali. Vai. Abbassare non tregge più da sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. No, allora perché? Perché adesso noi ripartiremo superata questa pseudo crisi di governo. A questo punto è stata una partita di giro, però torneremo anche a chiedere con forza, da un lato, non un taglio della spesa pubblica, ma una migliore allocazione della spesa pubblica e anche un po' di tagli, e poi la riforma costo zero, la madre di tutte le riforme costo zero, la sburocratizzazione per chi lavora e fa impresa in questo paese. Voglio lanciare un appello, vediamo quanti lo firmeranno, una Bassanini per le imprese. La Bassanini fu quella che permise di, diciamo, di avere uno Stato che si fidasse della autocertificazione del suo cittadino, mettendo pene e sanzioni molto dure nel caso di falsa dichiarazione. Ecco, noi vorremmo anche un'autocertificazione il più possibile ampia per le imprese, basta, tutti i livelli di controllo, poi vengono gli ispettori, controllano, se hai mentito pene durissime, anche nel penale, ma almeno uno parte con la sua attività. Non è possibile avere tempi tre volte superiori alla Spagna, non dico ad altri paesi del nord Europa, per aprire un'attività commerciale in questo periodo. Comunque, l'Irlanda, paese piegato dalla crisi finanziaria, commissariato dalla Troica, quello che volete, però poi quando le riforme si fanno, cosa ha fatto l'Irlanda? Domani vota un referendum per abolire il suo Senato. Io non oso pensare se facessimo qua un referendum per abolire il Senato, secondo me votazioni bulgare. Allora, domani infatti la Repubblica Irlandese andrà alle urne in uno storico referendum per rimodellare il sistema parlamentare. Come emerge dai sondaggi, oltre il 60% è a favore dell'abolizione del Senato, il Seanad, formato da 60 membri che non vengono eletti. Avrebbe un risparmio comunque di 20 milioni di euro l'anno. E mentre in Irlanda, la cattolica Irlanda, va a votare probabilmente l'abolizione del suo, cioè ci sarà l'abolizione del suo Senato, oggi il ministro alla funzione pubblica, Giampiero D'Alia, parlando al nostro Senato, non a quello irlandese, ha detto: abbiamo ricevuto i dati delle amministrazioni, della pubblica amministrazione, il 70% in realtà, non tutte, 7 su 10 hanno fornito i dati di quanto spendono per le consulenze esterne. Allora, io invito facciamo un test, quanto secondo voi potranno spendere, neanche tutte, ma 7 su 10? Beh, ve lo dico subito, 1 miliardo e 300 milioni di euro in consulenze esterne ogni anno, altro che non ci sono risorse. Sono tutte necessarie queste consulenze esterne con i numeri che abbiamo nella pubblica amministrazione, con i dipendenti che abbiamo? Tra l'altro lo stesso ministro dice c'è obbligo di trasparenza nelle consulenze, la sanzione prevista nel caso siano decise nonostante le stesse professionalità siano presenti tra i dipendenti dell'amministrazione. E ancora, oggi, e ne parleremo più avanti, leggerete anche del scandalo che, insomma, delle spese folli della regione Friuli Venezia Giulia. Lo dico perché adesso ne parleremo. Ma insomma, non è pensabile continuare a cercare difficilmente di arrivare al 3% del rapporto deficit-PIL e poi avere una spesa pubblica che è comprimibile anche nelle consulenze esterne. 1 miliardo e 300 milioni e sono solo 70%, quindi la cifra in realtà è più alta. Va bene, 349, poi parliamo del Friuli Venezia Giulia, ci mancherebbe. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Primo tema è l'ennesima inchiesta che è partita oggi e che ha coinvolto in questo caso Merrill Lynch. L'accusa però è identica: negli anni della finanza d'oro, grandi banche d'affari anglosassoni Che cosa hanno fatto? Hanno convinto le amministrazioni locali italiane, Taranto, Milano, Verona, ma non solo, che fosse conveniente ristrutturare il tuo debito, quindi con i derivati, dimenticando un piccolo dettaglio che era il valore delle commissioni. È come se uno ti vendesse una casa e non precisasse, diciamo, qual è la parcella dovuta. Beh, nel caso del Comune di Verona, le commissioni occulte, secondo l'accusa dei PM della Procura di Verona, valevano 15 milioni di euro ed erano così alte da rendere non conveniente, cioè non è un dettaglio, ma da rendere non conveniente l'operazione stessa, cioè quella di appunto pagare Merrill Lynch per ristrutturare il debito del Comune di Verona, che ammontava a 250, se non ricordo male, 56 milioni di euro. I have a dream. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. E hanno inventato tante belle siglette per mascherare il grande debito: CMO, CDO, SIV, ABS. Scommetto che ci sono al massimo 75 persone in tutto il mondo che sanno che cosa sono. Beh, adesso ve lo dico io. Sono solo delle ADM, armi di distruzione di massa. Mentre ero dentro, ecco che cosa sono. Mi è sembrato che l'avidità sia diventata ancora più avida e con l'aggiunta di un pizzico di invidia. I signori degli hedge fund se ne andavano a casa con 50-100 milioni di dollari l'anno. Così anche il banchiere si guarda intorno e dice: mica sono l'ultimo imbecille, e comincia a usare la leva finanziaria sugli interessi fino a 40-50 a 1, con i vostri soldi, non con i suoi, con i vostri. E glielo lasciano fare, tanto siete voi che avete fatto il mutuo. E il bello della faccenda è che nessuno è responsabile. Il fatto è che crediamo tutti alla stessa favola. L'anno scorso, signore e signori, il 40% di tutti i profitti societari americani era costituito da proventi finanziari, non dalla produzione o da qualcosa che avesse comunque a che fare con le necessità delle persone. La verità è che ci siamo tutti dentro. Banche, consumatori, tutti muoviamo la giostra dei soldi. Prendiamo un dollaro, lo pompiamo di steroidi e lo chiamiamo leva finanziaria. La madre di ogni male di oggi è la speculazione. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. E poi mi devo anche sentir dire ieri da Paragone che io difendo la finanza. Forse qualcuno non ascolta il programma. È 5 anni e non molleremo il colpo, ve lo dico, perché la situazione in cui siamo è frutto di tante colpe italiane, ma la bolla e la crisi è scoppiata nel 2008 per questo tipo di finanza. Ora io dico, ma come si fa a prospettare a un comune che, diciamo, c'è anche una simmetria informativa, nel senso che le competenze tecniche dei funzionari del comune non penso siano così alte come gli uomini di Merrill Lynch, uno strumento derivato, sempre costi derivati. Poi c'è qualcuno che ancora dice: ma erano solo polizze assicurative. Sì, polizze assicurative che tu vendevi senza far capire i rischi e senza far capire le commissioni. Comunque, Marco Ferrando, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. La Procura di Verona ha aperto un'inchiesta e l'accusa è molto chiara, ma è anche molto pesante, perché faccio notare che oggi sono indagati, oltre che il numero uno di Merrill Lynch Italia, se riesco a trovare Merrill Lynch LPD, che si chiama Barry Ryan, ci sono anche il dirigente Merrill Lynch Corporate Service Nicholas Lomas e il vicepresidente pro tempore del Public Sector Strategic Solution Group, sempre di Merrill Lynch, che si chiama International Bank, che si chiama Marco Massucco. È più lungo leggere le cariche che spiegare il resto. Allora, secondo Federconsumatori Adusbef, i derivati tossici presenti nei comuni italiani, da 206 enti locali italiani, valgono 22,6 miliardi di euro, una bomba a orologeria su cui sono sedute le nostre amministrazioni comunali, che poi non hanno i soldi per fare le strade, gli asili, le mense e quant'altro, avrebbero generato perdite potenziali per 6 miliardi e 700 milioni di euro. Io voglio dire, mi sdraio sui binari se dobbiamo pagare, invece che fare gli asili, la finanza americana che ha venduto questi prodotti. Allora, l'accusa è soprattutto perché entra nel filone delle altre inchieste, Milano e Taranto. Marco. Sì, entra nelle altre inchieste perché il presupposto è quello di una truffa. Essenzialmente, come dicevi tu, è tutto partito 5-6 anni fa, in questo caso nel caso di Verona nel 2007, quando un comune, un medio comune, peraltro uno di quelli anche con le finanze non messe peggio, perché Verona, se guardiamo i rating assegnati ai comuni italiani, è in cima alla classifica, quindi in teoria non ne aveva bisogno, così come non ne avrebbe bisogno oggi. Merrill Lynch andò dal sindaco di Verona e propose di ristrutturare il proprio debito, circa 250 milioni, costruendo appunto una serie di derivati dai quali si è scoperto negli anni successivi vennero comprese 15 milioni di commissioni implicite, essenzialmente costi collegati proprio alla costruzione del derivato, che quindi essenzialmente nulla hanno a che vedere con la somma per la quale veniva offerta copertura. Che cosa è accaduto? È accaduto che nei mesi scorsi il comune ha agito parallelamente su due piani: quello amministrativo, per cui ha annullato le delibere in autotutela, tecnicamente si chiama così, le delibere che originavano il contratto, e quindi ha smesso di pagare. Dal punto di vista civile si è smarcata con UniCredit perché ha transato, mentre con Merrill in teoria si può ancora arrivare a una transazione. Dal punto di vista penale è arrivato un esposto che ha portato al sequestro di oggi. Perché? Perché la Procura di Verona di fatto ha preso per buona la stima degli avvocati del Comune di Verona, che appunto avevano calcolato in 15 milioni le commissioni implicite. Dopo il metodo e la pubblicità cerchiamo di capire, perché tu ricordavi che UniCredit ha transato. Ha transato nei mesi scorsi. Nei mesi scorsi. Dovremmo capire se Merrill Lynch a questo punto è ancora in tempo per transare oppure no, e che cosa sta capitando invece anche delle altre inchieste, perché il 30 gennaio prossimo c'è il processo di appello a quattro delle più importanti banche a livello mondiale: Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e Deutsche Bank, condannate già in primo grado per l'operato dei loro manager che avrebbero truffato il comune di Milano sostanzialmente con un'operazione finanziaria sui derivati venduta praticamente al buio senza le corrette informazioni. Nel dicembre del 2012 il giudice della quarta sezione penale Oscar Maggi aveva già confiscato 89 milioni e 600 mila euro a carico di queste banche, e poi con una storica sentenza che ha fatto il giro del mondo erano state inflitte condanne comprese tra i 6 mesi e gli 8 mesi con pena sospesa, attenuanti generiche, a 9 manager ex funzionari delle 4 banche, e solo 4 assoluzioni. Secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Robledo, nell'operazione al centro del processo, uno swap trentennale stipulato dal Comune Milano, Giunta Albertini nel 2005, i 4 istituti avrebbero omesso di dare informazioni al Comune di Milano sulle protezioni che gli spettavano, cioè quindi un profitto illecito. Vorrei capire che piega stanno prendendo anche tutti questi processi. I have a dream. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il nostro sogno è vedere un po' di giustizia sul fronte di chi ha venduto certi prodotti ai comuni. Alcuni ascoltatori scrivono: vabbè, è circonvenzione di incapace. Non lo so, è ovvio che non stiamo, a noi non piacciono queste tesi in cui tutto il male da una parte, tutto il bene dall'altra, manichei non siamo. È ovvio che anche i comuni potevano dotarsi di strutture interne un po' più svegli, un po' più esperti, visto che poi paghiamo 1.300 milioni almeno di consulenze. Però attenzione, c'è un premio Nobel che ha vinto il suo Nobel all'economia sulla asimmetria informativa. È chiaro che tu che vendi quel prodotto, o il comune assume un top manager di queste banche d'affari, o se no tu hai più informazioni rispetto alla controparte. Ma questo avviene anche in tanti altri casi: quando andate da un medico, lui ha più informazioni di voi e dovete fidarvi, quindi c'è anche un atto di fiducia. Cioè, nessuno immagina che il medico ti dia una ricetta perché ha un accordo, senza, diciamo, specificare l'accordo che ha con la casa farmaceutica che produce il farmaco. Qui, con tutte le responsabilità, la leggerezza, l'ignoranza in senso latino dei vari comuni, delle varie amministrazioni, non si può mettere sullo stesso piano la preparazione di chi questi prodotti li ha creati per venderli come un virus in giro per il mondo e il comune di Taranto, di Verona. Poi ci sono anche altre regioni coinvolte, Marco. Sì, ci sono anche regioni, province, per esempio la regione Piemonte che nel 2006 costruì dei derivati, pensate, su un'emissione obbligazionaria da 1.600.000.000. In quel caso, come in tutti i casi che anche citavamo prima, forse i politici di turno dovevano evitare la tentazione della finanza, perché una volta che si sono buttati dentro è chiaro che poi ci si perde in una marea di clausole ad elevatissima tecnicalità che appunto soltanto chi le produce le può capire veramente. Tra l'altro, l'andamento di queste sentenze, secondo te, quello che sarà insomma poi la risoluzione finale? Perché in primo grado la sentenza è stata netta a Milano, mi riferisco. Il 30 gennaio quale potrebbe essere, diciamo, il nuovo appello nell'appello? Ma sicuramente appunto la sentenza dell'anno scorso ha fatto giurisprudenza ed è come dire, si accettano scommesse anche su quello, potremmo costruire un derivato, nel senso che se effettivamente il giudice d'appello confermerà sarà ancora di più un precedente veramente storico. Non dimentichiamo che accanto alle sentenze penali ci sono anche giudizi civili, per cui noi stiamo assistendo a sempre un maggior numero di transazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente anche le banche riconoscono che c'è il rischio di perdere le cause sia penali che civili, quindi meglio trovare una soluzione stragiudiziale. Proprio Verona, che è il caso di oggi, appunto dicevamo pochi mesi fa Unicredit, che tra l'altro era entrata in una seconda battuta nell'operazione di Verona, ha deciso di uscire transando, quindi riconoscendo le commissioni implicite al mark to market. Questo evidentemente dimostra che come dire, anche le banche stanno un po' alzando la guardia e stanno cercando di fare ordine a loro volta. E infatti vedremo se poi vi saranno altri casi come quello di Unicredit. Grazie intanto a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Ripeto, sono oltre 256, visto che ce lo richiedete, i milioni di contratti di euro, dei contratti derivati stipulati in questo caso dal comune di Verona. E adesso però andiamo a fare la borsa. Finalmente una seduta in cui, pur essendo leggermente negativa, Milano è identica alle altre borse europee, non c'è più, diciamo, la variabile politica, meno 0,44% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,40% Francoforte, invariata Londra, l'America meno 1% in questo momento. Vanno bene alcune banche, Popolare di Milano su tutte più 3,90%, Fondiere Sai più 2,60, Ubibanca più 1,20, tra i titoli finanziari. Di nuovo forte Finmeccanica più 3%, Mediolanum più 2,30, Ansaldo STS più 1,80, Telecom Italia più 1,60%. Fronte opposto, CNH Industrial meno 3,18, Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 1,50 come Fiat, l'1,30 lo perde Exor, l'1,20 Terna, l'1% Tenaris, lo 0,80 Intesa San Paolo ed ST Microelectronics. La borsa, dicevamo, oggi non la facciamo con i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore, ma che ogni tanto capita con i gestori. Allora, dottor Roberto Brasca, buonasera innanzitutto. Buonasera. Dicevamo, Europa tutta incerta, oggi non c'è più la variabile politica italiana. Milano ha avuto un calo assolutamente in linea con il resto delle borse europee. In evidenza CNH da un lato, che è New Holland, e dall'altro anche Finmeccanica e Ansaldo. Su Finmeccanica è insomma l'ipotesi che si sta delineando, la cassa depositi e prestiti? Sì, direi che Finmeccanica è in corso un processo di ristrutturazione, quindi ogni buona notizia che viene, che arriva sul mercato e riguarda un possibile recupero di cassa tramite un'alienazione alla partecipazione, ovviamente viene preso positivamente. Diciamo che in questo momento la preoccupazione in Italia è quella, essendo le valutazioni abbastanza basse, di non svendere ma di prendere il giusto corrispettivo. E questo per quello che riguarda Finmeccanica e Ansaldo STS. Di nuovo in leggero recupero Telecom Italia, che sarà il prossimo tema di questa puntata, più 1,66%. Insomma, le dimissioni di Franco Bernabé erano molto scontate, devo dire, dal mercato. Oggi una leggera ripresa, sì, a 64 centesimi di euro per azione. Sì, il mercato diciamo che ha beneficiato, beneficia di questa, di queste dimissioni, da un lato perché se uno guarda un bilancio degli ultimi 5 anni non si può dire che Telecom Italia sia andata particolarmente bene, anche se ovviamente c'era un trend settoriale particolarmente sfavorevole. Dall'altra parte, visto che Barnabé riteneva necessario un aumento di capitale, ovviamente gli azionisti attuali avrebbero sofferto di una diluizione nel caso di un aumento di capitale, che avrebbe dovuto chiaramente sopportare un bello sconto in queste condizioni. Forse un aumento di capitale si potrebbe fare, ma nel momento in cui venga riconosciuto un trend diverso del settore, o magari il regolatore abbia consentito a diminuire la pressione sui margini, ecco. Case New Holland, fronte opposto invece, meno 3,18% e anche Fiat meno 1,50%. Sì, Case New Holland credo che sia semplicemente una... Beh, è stato un po' in tensione il titolo quando fino a 3 giorni fa si chiamava Fiat Industrial. Le attese di queste operazioni straordinarie spesso portano con sé o rialzi un po' più accentuati o ribassi un po' più accentuati. In questo caso è stato un rialzo, credo che si tratti di una presa di profitto. Non dimentichiamoci che d'ora in avanti la quotazione andrà abbastanza insieme a quella americana, e quindi dovremmo incorporare nella valutazione di Case New Holland in Italia anche il tasso di cambio euro-dollaro. Fiat oscilla ormai da mesi intorno ai 6 euro, secondo le notizie che arrivano sul mercato a proposito delle trattative con il sindacato Veba per l'acquisizione totale o la quotazione in borsa di Chrysler. Quindi insomma, finché non arrivano delle notizie precise in un senso o nell'altro, oppure delle notizie settorialmente più significative per gli utili, il prezzo non ha una vera direzione. Ecco. Ancora, in generale, adesso al di là dei titoli italiani, devo dire poco mossi gli altri: Exor meno 1,30, Terna meno 1,17, Tenaris meno 1, Intesa San Paolo meno 0,80, come Steam Microelectronics. Fronte opposto invece, oltre ai titoli già citati, Ferragamo più 1,20, UbiBanca più 1,20, A2A più 1 come Mediaset e Diasor in più 0,80. In generale la debolezza di tutte le borse europee, con l'eccezione unica di Londra, e della borsa americana, è dovuta anche a un indice non manifatturiero americano peggiore delle stime, o ho capito male? Ma io credo che in generale poi questi dati che escono periodicamente servano un po' a confermare o a non autorizzare un certo comportamento del mercato. Noi abbiamo avuto un mercato che si è mosso molto positivamente ed è del tutto fisiologica una presa di profitto che poi sarà più o meno accentuata secondo l'andamento, appunto, l'uscita di dati singoli, ma spesso noi vediamo questi dati che sono contraddittori, un giorno esce un dato e lo stesso dato potrebbe essere interpretato con la storia positiva e la storia negativa. Quante volte abbiamo visto un dato positivo sull'economia interpretato un dato negativo interpretato positivamente perché avrebbe significato una politica monetaria molto espansiva, mentre invece un giorno diverso può essere interpretato in modo negativo perché effettivamente viene preso come mancanza di crescita economica. Quindi insomma trattare questi dati è sempre una cosa abbastanza delicata, se non sono dati molto molto significativi o di punto di svolta. No, chiaro. Allora, migliori e peggiori in assoluto. Oggi Arena più 34%, Valsoia più 6,60%, RCS Media Group più 5,60%. Fronte opposto, Seat Pagine Gialle meno 5,90%, Seat Therapeutics meno 4,80%, Ambro Mobiliare meno 3,80%, e poi Beni Stabili meno 2,60%. 349-238-6666 per i vostri SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Grazie, buon fine settimana dottor Roberto Brasca. Adesso noi ci occupiamo della vicenda Telecom, che è in parte anche una giungla. Fermo restando che c'è un messaggio bellissimo, lo leggo subito, che, di un ascoltatore che dice: ma Franco Bernabé sa di essersi dimesso o lo leggerà sui giornali domani mattina? Il riferimento è chiaramente alla dichiarazione di Bernabé che quando gli spagnoli hanno aumentato la quota ha detto l'ho appreso dal comunicato stampa. Non male, non male la battuta. Allora, Livia Zancaner, ci sei? Buonasera. Buonasera, sì, sono qui. Ecco, tu hai seguito oggi e stai seguendo il Consiglio di amministrazione di Telecom Italia, che è ancora in corso, me lo confermi? Sì, ci hanno riferito che il CDA è ancora in corso. È uscito il consigliere Gaetano Micciché, che ha dichiarato che secondo lui l'azienda ha un forte potenziale, che ci sono i presupposti perché il rilancio possa avvenire. Micciché ha anche detto di confidare che il management attuale sia in grado di sviluppare tutto ciò, cioè il rilancio della ecco, società di telecomunicazioni. Hey, 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e stavamo iniziando a commentare con Livia Zancaner di Radio Colle sulle 24 ore il consiglio di amministrazione di Telecom Italia, che è ancora in corso, ma diciamo un risultato l'ha già ottenuto. Alle 16 si è saputo che il presidente di Telecom Franco Bernabé si è dimesso. Livia, tu ci stavi raccontando che è uscito anche Gaetano Micciché, uno dei consiglieri, perché Intesa San Paolo resta come agile generali, come Mediobanca, pur con una quota più che dimezzata dentro l'azionariato di Telco, che a sua volta controlla, è l'azionista di riferimento, non è l'azionista di maggioranza, o di maggioranza relativa chiaramente, controlla Telecom Italia. Le dichiarazioni di Micciché. Sì, Micciché ha dichiarato che l'azienda ha un forte potenziale, che ci sono i presupposti perché un rilancio possa avvenire, ha detto anche di confidare che il management attuale sia in grado di sviluppare tutto questo, quindi il rilancio di Telecom. Ha parlato del partner industriale forte che è Telefonica, ha detto anche che non si era parlato, ma al momento di scorporo della rete, ricordiamo che Micciché è uscito dopo le 17, il CDA è in corso, ma dicono che dovrebbe essere addirittura d'arrivo, nel senso che alcuni consiglieri sono già usciti, come appunto Micciché, Zingales, che è il capo di consiglieri indipendente, è uscito Renato Pagliaro e il presidente di Telefonica Lierta. Da questo punto di vista, a che ora c'è una previsione minima su quello che sarà la fine di questo consiglio di amministrazione, e poi sull'ipotesi di chi sarà il prossimo numero uno? Da quello che vedo io resta solo l'ipotesi di Massimo Sarmi, amministratore legato alle Poste Italiane. Sì, allora, previsione sulla fine del consiglio al momento non ce ne sono. Ricordiamo che dovrà anche essere nominato il consigliere che sostituisce appunto Elio Catania. Oggi inoltre dovrebbero essere distribuite quindi le deleghe di Franco Bernabé, probabilmente andranno al vicepresidente Aldo Minucci e all'attuale amministratore delegato di Telecom Marco Patuano. Per quanto riguarda Massimo Sarmi, l'eventuale successione al ruolo di Bernabé, secondo Vindiscrezioni impiegherà ancora qualche settimana, bisognerà vedere quindi se gli azionisti di Telecom troveranno un accordo e se appunto Massimo Sarmi lascerà il ruolo di amministratore delegato di Poste Italiane. E poi anche sulla sostituzione di Elio Catania, anche lì mi sembra di capire che i due nomi, i due papabili, siano o il presidente di Rizzoli Corriere della Sera, Angelo Provasoli, o Francesca Cornelli, indicata dall'azionista Sogestioni? Sì, diciamo che Elio Catania era consigliere in quota Telco nominato da Intesa San Paolo, quindi In teoria, cioè, quindi il sostituto dovrebbe essere Angelo Provasoli, poiché è nominato da Telco Assogestioni, o meglio il comitato dei gestori aveva indicato Francesca Cornelli come consigliere indipendente, una candidatura che è stata sponsorizzata dai consiglieri indipendenti, ma ancora al momento non si sa su quale nome sia ricaduta la scelta. Un'ultima domanda, si sa qualcosa della liquidazione di Bernabé? Mi chiedono, ma dubito che sia uscito ancora qualcosa su questo. No, al momento assolutamente nulla, diciamo che ieri si è riunito il comitato nomine e remunerazione, quindi probabilmente ne avranno parlato in quella sede, ma al momento non si sa nulla e dubito che uscirà dal consiglio di amministrazione di oggi, o perlomeno in via ufficiale. Allora, grazie, casomai tienici aggiornati, visto che tu sei lì davanti alla sede del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, forse vale la pena ripercorrere che cosa è successo, ne abbiamo parlato a lungo nelle ultime settimane. Gli spagnoli, i cattivi spagnoli secondo alcuni, hanno messo sul piatto un'offerta da 860 milioni di euro, questo è il gruppo Telefonica, che li porterà a regime a diventare il primo socio di Telecom Italia, ma per almeno un anno, diciamo, blindati gli assetti, la governance di Telco, in modo che non figureranno come i soci di controllo della Telco, che ha a sua volta il 22,5% di Telecom Italia. L'accordo è stato firmato lo scorso 25 settembre tra i soci italiani, Mediobanca, Intesa San Paolo e Generali, con il partner spagnolo, appunto, Telefonica. Di fatto l'operazione ha diversi passaggi, la quota aumenterà in due passaggi diversi, la quota degli spagnoli, ma l'obiettivo è molto chiaro ed è unico: consegnare. Gli spagnoli avranno la cabina di comando e di regia, oltre che i debiti, della società che controlla Telecom Italia. E qui io devo dire che devo a Marco Nado un'espressione, l'economista Marco Nado, un'espressione che mi è piaciuta tantissimo: la disciplina del cadere dal pero. Perché? Perché il cadere dal pero è quello a cui abbiamo assistito quando gli spagnoli, dopo settimane che se ne parlava, hanno annunciato che avrebbero aumentato la loro quota, o meglio rilevato le quote di Generali, Mediobanca, che l'avevano già annunciato, e anche di Intesa San Paolo. Sono tutti caduti dal pero, a partire dalla nostra classe politica. Io non posso, magari dopo il traffico facciamo risentire quel zanonato mitico, a mio avviso, dello scorso 25 settembre, il ministro che diceva: ma non è successo niente, è una cosa piccolissima, non è vero che Telecom diventa spagnola. Ma è sul cadere dal pero che uno resta basito, perché uno può avere tutte le idee del mondo, ritenere che meno male che arrivano dei capitali stranieri, ritenere che invece sia gravissimo che un paese ceda la sua compagnia telefonica in mano straniere, ritenere che fosse anche strano, e io la penso così, che dentro Telecom Italia vi fossero per la parte italiana solo soci finanziari, non c'era nessun socio industriale, Mediobanca, Intesa San Paolo e Generali. Ma uno può pensare come vuole. Quello che a mio avviso non è accettabile è svegliarsi il 25 settembre e dire: mamma mia, sono arrivati gli spagnoli, oppure Francia e Spagna, purché se magna, dicevano una volta, qua tra i francesi e gli spagnoli stanno comprando i pezzi migliori del paese. Ringrazio quindi per averci raggiunto in collegamento l'economista Marco Nado. Buonasera, professore. Buonasera. Grazie per l'espressione cadere dal pero. Noi non vorremmo cadere dal pero, non ci cadiamo. Sì. E dopo, io ho detto che se fosse una disciplina olimpica saremmo medaglia d'oro, d'argento e di bronzo, sicuramente. Come paese e come anche classe dirigente, tutti che si svegliano all'improvviso. Allora, dopo il traffico, vorrei capire non solo come si è arrivati, lo abbiamo raccontato, il Telecom Italia ai tempi in cui era partecipata dallo Stato era comunque un bel gruppo, la STET era comunque un bel gruppo, era all'avanguardia in tanti campi, soprattutto la telefonia mobile. Poi c'è stato il passaggio alla privatizzazione col nocciolino minuscolo alla Fiat, public company, ma non ha retto, era fatta male quella privatizzazione. Poi un passaggio con la Ninno, che di fatto per far cassa e trovare i soldi ha anche venduto la Omnitel, ma poi sono iniziati i problemi, perché quando tu con una quota piccola attraverso le varie scatole cinesi controlli un gruppo come Telecom, è ovvio che devi portare su gli utili e crea indebitamento e rischi di non valorizzare e depauperare anche quelli che sono gli asset, i gioielli del gruppo. Da lì poi a Tronchetti un atteggiamento, diciamo, molto simile: tutti gli utili venivano portati in alto e venivano ceduti a società importanti di Telecom, e poi si arriva alla gestione Bernabé e al fatto che in realtà gli spagnoli entrano, come tutti abbiamo capito, soprattutto per comprarsi o per gestire la Team Brasil, che è la loro principale concorrente nella principale economia del Sud America. Vorrei capire se lei condivide invece le preoccupazioni, oltre al percorso a cui si è arrivati a questa vicenda, a questo finale di vicenda, e che cosa può fare adesso il governo, perché ho letto di tutto in questi giorni: golden share, cambiare la legge sull'OPA. Mi sembra un po' che si stia chiudendo la stalla con i buoi già scappati. Intanto adesso in Telecom è successo pochissimo, cioè è semplicemente successo che Telefonica ha comprato la maggioranza assoluta delle azioni di Telco. Sono alla fine, controlleranno il 22,5% di una società in cui il 77,5% non è Telco. Non è che è diventata quindi Telefonica la proprietaria di Telecom. Io penso, primo, che bisogna anche qua ragionare non solo sugli effetti delle cose che abbiamo deciso, che sono state decise anni fa, ma sull'intero percorso, e che adesso è necessario attuare tutte le politiche per poter evitare eventuali danni. Quali sono i danni? Che il sistema della rete fissa non sia sotto il controllo italiano, visto che è un asset fondamentale nel nostro paese, e che le attività di compravendita non danneggino l'occupazione, per esempio, ma consentono all'Italia di mantenere i livelli occupazionali nel campo telefonico attuale. Quindi io sto lavorando su questo, ma lo ripeto, non ho poteri magici, cioè sono effetti di cose decise tempo fa. Certo, non è un buon esempio di privatizzazione questa di Telecom. L'impressione che non sia un buon esempio, sì, ho l'impressione che lei abbia ragione. No, ve l'ho fatta risentire, e gliel'ho fatta risentire, professor Onato, questa dichiarazione del ministro Zanonato dello scorso 25 settembre, perché obiettivamente dire che su Telecom è successo pochino, non è vero che gli spagnoli hanno il controllo, a me sembra una follia. Detto questo, le risposte nel suo cadere dal pero, le risposte del governo nei giorni successivi le sono sembrate qualcuno che è sceso dal pero, è caduto dal pero, non c'è mai salito sul pero, mi dica. Che cosa fare adesso è difficile dire, ma ripeto, il problema è che questo passaggio è semplicemente l'ultimo atto di una vicenda lunghissima, tormentata e molto spesso infelice, che nasce con la privatizzazione di Telecom, quando il grande capitale italiano minimizza l'impegno, non crea un nocciolo duro adeguato e anzi pretende di comandare il maggior azionista, che era l'IFIL, con lo 0,6%. Lì comincia a uscire il primo socio industriale. Ho sentito prima la dichiarazione di un consigliere, dicendo Michiché, sì, Michiché, che diceva abbiamo un socio industriale. I soci industriali sono stati cacciati negli ultimi 10 anni, prima quando è uscito l'americana AT&T, perché i nuovi soci, IFIL e gli altri, erano interessati più che altro agli aspetti finanziari e quelli industriali, e poi quando viene bloccata l'operazione che Bernabé 1 nel 1999 aveva cercato di mettere in piedi in opposizione alla OPAC Colaninno, di cui aveva visto chiaramente l'effetto devastante per i conti della società, perché quella montagna di debiti con cui è stata finanziata l'acquisizione sarebbe stata scaricata sulla società. Devo dire che io ricordo ancora quell'appello che fece a mezzo stampa Bernabé, cercando di spiegare agli azionisti perché non dovevano votare sì all'operazione con Colaninno. Devo dire che se uno va a rileggerselo, purtroppo aveva ragione, nel senso che quando una società viene comprata facendo debito, creando debito, poi è chiaro che tu, che per comprare questa società hai dovuto creare un grosso debito, cercherai di portare gli utili sempre sulla tua società di controllo per ripagarti il debito che hai contratto. No, quindi già parti male, parti debole. E devo dire, per essere precisi, che quella volta vi fu una vicenda abbastanza singolare. Lei sa cosa mi riferisco, il ruolo della Banca d'Italia. Allora era Fazio, Antonio Fazio, il governatore. La Banca d'Italia, che era azionista, fu determinante nel permettere la scalata di Colaninno. E anche del governo, che decide di non andare. Del governo D'Alema, se non ricordo male. Il governo D'Alema Mario Draghi, che allora era direttore generale del Tesoro, chiese e ottenne un ordine scritto. È vero, perché D'Alema non si, cioè il governo non si presentò con il suo rappresentante all'Assemblea e la Banca d'Italia ebbe una posizione. I grandi fondi, che avevano capito che sarebbe andata così, non si presentarono all'Assemblea, quindi quell'Assemblea andò deserta. Sì, sì, ecco perché quando mi dite ma la politica c'entra, ma non è solo la frase di D'Alema, capitani coraggiosi, uno può dire le frasi che vuole, ci mancherebbe, il problema è che se poi tu come governo non ti presenti in assemblea e dai un messaggio anche a tutti gli altri, è chiaro che Bernabé fu lasciato allora da solo, col senno di poi uno dovrebbe anche ammettere, mi rendo conto che magari D'Alema su questo abbia più difficoltà anche caratteriali, ma dovrebbe ammettere l'errore compiuto allora nel decidere di portare Telecom in mano a chi per scalarla aveva dovuto creare molti debiti, quindi avrebbe voluto subito i soldi indietro. Ecco. E creò la scatola cinese, bella pronta, che poi ha consentito i passaggi successivi a spese del mercato, perché l'operazione di Colaninno fu una bellissima opa a favore del mercato, ma dopodiché lui aveva creato questa chiama Bell. Poi Bell si chiama Olimpia per consentire il passaggio. Sì, dopodiché non ci furono più OPA, ma solo il passaggio di proprietà delle scatole cinesi che controllavano Telecom, per dirla tutta. È vero che Colaninno fece un OPA, è vero che su questo ci fu sicuramente un maggior rispetto dei risparmiatori, degli azionisti piccoli di Telecom, di quanto non ci fu poi nei passaggi successivi e anche adesso, diciamo. E i soldi di cui ci parla, gli 800 milioni, servono per pagare i vecchi soci di controllo, non per irrobustire patrimonialmente la società. Allora, ha ragione chi scrive, attenzione, Telefonica sbrossando 860 milioni controllerà Team Brasile, che vale 5 volte tanto e soprattutto permetterà di non avere più un concorrente di Telefonica in Brasile, così come Air France potrebbe avere un vantaggio con pochi milioni adesso per avere guadagni molto forti con milioni di passeggeri del mercato italiano che passeranno da Parigi. Siamo d'accordo, cioè, ma ragazzi, sono stranieri, non sono mona, per usare un termine poco economico, cioè, vengono a mettere i soldi perché vedono un loro vantaggio. Il problema, e qui varrei all'ultima domanda per lei, professor Nado, ma dobbiamo, al di là dello scorporo della rete, che è un tema sì di sensibilità strategica di un paese, ma dobbiamo veramente preoccuparci se in questi anni nessun azionista industriale c'è stato in Telecom? Prima o poi sarebbero arrivati comunque gli azionisti industriali per prendere il posto di quelli finanziari, visto anche questa è la amara realtà. Nel lavoro che ho scritto per la voce.info che lei citava, ho detto che questo è il problema di Telecom, si estende all'intero settore dei servizi pubblici. Per tutte le imprese succedute da Mediobanca, quindi sono praticamente tutte le grandi nazionalizzate, privatizzate, eccetera, negli ultimi 10 anni sono stati incassati 60 miliardi e ne sono stati immessi in società 5. E questo te lo dice, 60 miliardi portati come utile, 5 miliardi investiti distribuiti come dividendi, sì, esatto, come utile, distribuiti come dividendi. È una gran Ma voi immaginate se un imprenditore normale dovesse lavorare così, che si prende 60 milioni a quel punto di utili e ne investe sulla sua impresa in questi anni solo 5. Ma non lo so. Va bene, si fa per dire. Grazie al professor Marco Onado. Devo dare un'ultima risposta, adesso non voglio tornare sul tema, figuratevi se oggi voglio parlare di nuovo dell'euro dopo la puntata di ieri da paragone alla gabbia, però lo dico a chi scrive su Facebook, tutto si può dire, ho criticato Angela Merkel e questo tipo di Europa per anni, però resto dell'idea che sia meglio che l'Italia lotti per una diversa Europa dentro l'euro che non fuori dall'euro, però una cosa non si può dire perché è inaccettabile. Il debito pubblico italiano, confermo, è esploso dagli anni 80 in poi. Qualunque grafico andiate a prendere vi dimostra come dall'82 per la precisione il debito rispetto al PIL inizia a salire, negli anni 93-94 lo supera e poi diventa appunto un debito superiore al 100% del PIL. Quindi chi rimpiange quegli anni sappia che buona parte di quella ricchezza ce la siamo costruita anche sulle spalle dei nostri figli, cioè creando un debito che poi appunto a metà degli anni 90 supera il PIL come valore. Questi sono fatti, sono cifre recuperate dovunque, tutto il resto è esoterismo economico. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.